Investire informati. E parliamo naturalmente dell'attualità finanziaria, delle dinamiche dei mercati, le notizie che movimentano le sedute di borsa, i temi su cui ci confrontiamo sono tanti e cerchiamo in questa maniera anche di orientare un po' i risparmiatori. E partiamo come sempre dalla cronaca per andare poi oltre commentando le vostre scelte personali, se le volete condividere con noi, ma soprattutto con il nostro ospite di oggi. È tornato a trovarci Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, dottor Alfieri, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Fate attenzione, vi racconteremo un po' di cose all'inizio di questa trasmissione. Non vi chiederemo le ricette per la colazione, ma se volete cimentatevi anche con un'osservazione ulteriore, anche se le domande sono state tante su questo. Ma vi spiegheremo appunto alcune cose che sono successe negli ultimi giorni e poi magari su questi argomenti vi faremo il nostro domandone nella seconda parte della trasmissione. Dottor Alfieri, allora, da qualche settimana, da qualche mese forse i temi sono un po' sempre gli stessi, no? E in questi mesi li abbiamo commentati molto di frequente: le banche centrali, le politiche monetarie, i tassi di interesse, le obbligazioni a rendimento zero e anche sotto zero. E poi abbiamo aggiunto purtroppo nelle ultime settimane anche questa nuova tensione geopolitica. Oggi è la grande giornata della Banca Centrale Europea, commenteremo quale scenario possibile oggi Mario Draghi delineerà per le prossime settimane. Ma inizia da un'altra notizia che magari è stata certamente di impatto meno immediato fra le persone, però è di grande rilevanza per il panorama finanziario e soprattutto per il mercato valutario. La scorsa settimana il Fondo Monetario Internazionale ha inserito lo yuan, la moneta cinese, fra le monete che compongono il suo paniere di riserve valutarie. Questo paniere comprendeva fino ad ora solo dollaro americano, euro, sterlina e yen, cioè la moneta giapponese. Quindi questo paniere adesso ha un nuovo bilanciamento che poi magari andiamo a raccontare, ma io mi chiedo, dottor Alfieri, questa notizia ha importanza anche per noi o ce l'ha solamente per voi investitori professionali? Ma, questa è una notizia ovviamente molto tecnica, ma che dà un significato specifico un po' ai tempi che cambiano e all'evoluzione che anche il mondo finanziario e anche il commercio internazionale sta dando al ruolo della Cina, che ormai viene considerata una superpotenza economica, commerciale e adesso anche in parte finanziaria, per cui è un attestato del fatto che bisognerà tener conto ovviamente nelle valutazioni complessive anche dell'evoluzione sotto l'aspetto meramente finanziario delle decisioni della Banca Centrale Cinese. Ma al Fondo Monetario Internazionale che cosa serve avere questo paniere di riferimento del mercato valutario? Ma diciamo che ai fini pratici non moltissimo, però per esempio nelle dispute internazionali, multe o trattative, viene utilizzato questo paniere per ovviamente far capire quanto eventualmente sono qual è il peso di ogni paese, anche di ogni paese decisionale, e il valore complessivo dei rimborsi per esempio durante delle litigation internazionali. Nello specifico non viene utilizzato quotidianamente, ma dà un po' il senso del fatto che anche il Fondo Monetario Internazionale ha dovuto rendere conto del fatto che c'è al tavolo un interlocutore abbastanza pesante. Allora, tra l'altro in questo paniere, fatto 100 il valore complessivo appunto di questo basket, come si dice anche in termini finanziari, adesso c'è questo nuovo bilanciamento, il dollaro pesa per il 41,7%, quindi è un po' sceso rispetto al peso precedente. Il peso dell'euro è stato molto ridimensionato, è andato al 30,9% dal 37,4%, quindi praticamente lo yuan è entrato sgomitando e ha ridimensionato l'euro. Lo yen pesa l'8,3% dal 9,4%, la sterlina passa all'8% dall'11,3%, lo yuan peserà il 10,9%, appunto, quindi questo 10% è stato un ingresso un po' rumoroso per l'euro, dottor Alfieri, un po' ingombrante per l'euro, ha schiacciato l'euro. Cosa significa per noi? Specificatamente è chiaro che è stato ridotto l'impatto soprattutto dell'euro e anche della sterlina, che ovviamente ora nello scenario internazionale in termini di interscambi ma anche di peso devono rendersi conto di aver lasciato in parte strada alla Cina, che viene considerata ormai la seconda economia più grossa nello scenario internazionale e se viene tenuto in conto parità di potere d'acquisto, addirittura viene messa al primo posto. 800 24 00 24, se volete così porci qualche domanda, qualche curiosità sui temi finanziari del momento. A proposito di Cina, le borse di quest'area dopo lo scossone d'agosto stanno andando di nuovo abbastanza bene. Una piccola scossa in realtà nuova è arrivata venerdì dopo che è partita una nuova indagine da parte delle autorità cinesi, che hanno ipotizzato una serie di violazioni di normative che regolano i mercati da parte di alcuni colossi del brokeraggio, ma lì perché appunto questi mercati sono sempre gestiti un po' a volte da attori che operano in modalità non tanto trasparente. Dal punto di vista macroeconomico è arrivata l'ennesima conferma del rallentamento della locomotiva cinese. I profitti del settore industriale in ottobre sono scesi per il quinto mese consecutivo, ha infrenato il settore manifatturiero. Come dobbiamo leggere tutte queste notizie? Lorenzo Alfieri. Ma diciamo che la Cina ovviamente è in una fase di rallentamento, venendo ovviamente da annate in cui la crescita è stata vorticosa, anche a volte superiore al 10%. Come dicevo prima, la Cina ormai è una superpotenza. Non è pensabile che un paese così grosso, anche in termini di prodotto interno lordo, possa continuare a crescere a ritmi del 10% che sono propri dei paesi piccoli e in forte sviluppo. Quindi anche le autorità cinesi si sono resi conto di un inevitabile rallentamento. Quello che stanno cercando ovviamente di fare è che possa proseguire un rallentamento sano, intorno al 6,5%, ordinato intorno al 6,5%. Questo è quello che ci aspettiamo anche noi, ma è ovvio che nel frattempo, per raggiungere questa crescita ordinata, bisogna fare, per così dire, degli errori, ci saranno degli sbagli, dei momenti di frattura. La crisi di questo agosto, con una forte correzione dei mercati finanziari, quella che è avvenuta anche recentemente, sono un po' la testimonianza che per arrivare a una fase più equilibrata in questa fase di transizione bisognerà ogni tanto avere degli scossoni. Ma noi comunque rimaniamo positivi, crediamo che il governo cinese stia operando correttamente in una fase di transizione, di trasformazione dell'economia cinese verso maggiori consumi interni, mentre nel passato ricordiamoci che i maggiori driver, i punti di forza erano l'esportazione, esatto, e gli investimenti, forti investimenti infrastrutturali interni in un'economia che stava esplodendo. Mi ha sempre affascinato molto questo aspetto del fatto che rappresenti un problema, la questione di un paese che cresce tanto, no Nicoletta? È un po' come, non lo so, una persona, mi faccio questo paragone con il tema di cuore, una persona che magari è apparentemente sana, magra, mangia tanto, ma ad un certo punto diventa un problema anche quello, no? Anche se al di fuori non si vede, non so insomma se ho fatto un parallelismo azzardato. Detto questo, Roberto, a proposito delle valute che abbiamo toccato prima, chiede: fino a poche settimane fa però la Cina stava svalutando la propria valuta. Esiste una correlazione fra questo ingresso dello yuan nel paniere del Fondo Monetario Internazionale e la decisione di svalutare che ha provocato lo scossone di mercato di agosto, o così proprio non c'entrano nulla le due notizie, le due circostanze, Alfieri? Ma no, diciamo che la decisione della Banca Centrale Cinese di svalutare è stata una manovra ovviamente per addolcire, diciamo, l'impatto di alcune successive decisioni. Di fatto la conseguenza che è stata molto importante, psicologicamente molto forte dai mercati, ricordiamoci la forte reazione, è stata la dimostrazione di come ancora le autorità cinesi non abbiano preso le misure coi mercati finanziari. Quindi è quello che faccio riferimento prima. In questa fase di transizione potrebbe accadere ogni tanto che le autorità cinesi non riescono a governare bene questa enorme nave, direi più un transatlantico che una nave, nei mari dei mercati finanziari, ecco. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Ne arrivano già, come ci aspettavamo quando affrontiamo il tema degli investimenti e dei mercati, domande sulla situazione delle quattro banche, tra virgolette, salvate dal provvedimento del governo di 10 giorni fa. Allora, non è il tema di questa mattina, Lorenzo Alfieri è un esperto di scenari finanziari e mercati finanziari internazionali. Abbiamo deciso al momento di non rifare in tempi brevissimi una puntata su questo argomento, solo perché stiamo cercando anche di capire poi come orientare le persone che hanno perso tutti i loro investimenti nelle obbligazioni di queste bancarie. I correntisti non rischiano nulla, lo dico a Gilberto da Roma che ci ha telefonato, ma non lo facciamo intervenire in diretta, però glielo vorrei dire. Problema è per invece gli obbligazionisti di queste banche. In attesa di capire che tipo di iniziative potranno intraprendere, se potranno rientrare in possesso del loro investimento, circostanza della quale dubitiamo tutti fortemente, aspettiamo di raccogliere anche un po' di materiale. Stanno serrando le fila le associazioni dei consumatori, mettendo in piedi anche delle azioni collettive. Quando avremo materiale un po' concreto da darvi, ci ritorneremo su questo argomento, magari già dalla prossima settimana. Dottor Alfieri, sì, ancora un minutino per un'altra domanda ce l'abbiamo, prima della giornata di borsa di oggi, che peraltro è molto positiva. Il Giappone, mi hanno incuriosito queste due notizie che sono arrivate dal Giappone proprio negli ultimi giorni. Da una parte abbiamo avuto una conferma che questo paese è in recessione tecnica, perché per due trimestri consecutivi ha avuto un PIL negativo. Poi c'è stato il dato sulla disoccupazione, a ottobre è scesa al 3,1%, cifre che per l'Italia sono un miraggio autentico, è il livello più basso dal 1995. Com'è possibile che un paese che ha una disoccupazione in diminuzione abbia anche contestualmente un PIL in caduta libera praticamente? Ci aspettavamo ovviamente un dato negativo in termini di crescita del Giappone. Il Giappone ovviamente sta soffrendo molto il fatto che c'è stato un rallentamento dell'interscambio commerciale internazionale dovuto alla crisi soprattutto dei mercati emergenti, dove il Giappone ha sempre avuto una notevole forza, quindi evidentemente in questa fase, nonostante internamente le aziende stiano andando particolarmente bene, quindi ci sia inevitabilmente un appetito, una richiesta di nuova occupazione, poi i risultati complessivi del paese non siano estremamente soddisfacenti. Anche per questo motivo pensiamo che le autorità governative giapponesi rinterverranno nuovamente manovrando probabilmente i tassi per cercare di dare nuovo vigore all'economia giapponese, che non riesce a uscire da questo circolo virtuoso. Insomma, il 2016, il 2016 sarà ancora l'ennesimo anno in cui dovremo stare attenti a parlare ancora di politiche monetarie e di scelte delle banche centrali. Tra l'altro Massimo ci chiede, visto che prima abbiamo affrontato l'argomento valute parlando di questo nuovo paniere di riferimento per il Fondo Monetario Internazionale, chiede se il dollaro americano si manterrà a lungo nel rapporto con l'euro vicino alla parità 1,05, siamo stamattina 1,05 rotti. Lei come vede questo rapporto? Il quadro di riferimento in questo momento sul dollaro è, rispetto all'euro chiaramente, di una valuta che godrà di tassi leggermente più alti in futuro, perché la Fed inevitabilmente interverrà. Dall'altra parte ovviamente abbiamo una BCE che è presumibilmente ritira bassi ancora per parecchio tempo. L'economia americana sta andando particolarmente bene, quella europea stenta, sta crescendo ma a tassi sicuramente inferiori. In questo caso quindi gli elementi sembrano favorire un rafforzamento del dollaro. Il dollaro però viene da una forte rivalutazione. Crediamo quindi che sia difficile che le autorità americane consentano un ulteriore rafforzamento del dollaro, quindi tecnicamente anche noi siamo abbastanza dell'idea che la rivalutazione del dollaro potrà essere limitata ancora rispetto a quello che ha già fatto molto. Peraltro ricordiamo, rispetto all'euro, a meno che non ci siano cambiamenti drammatici, sicuramente non dovrà deprezzarsi più di tanto. Il dollaro rimane in questa fase più forte rispetto all'euro. Forte anche la borsa stamattina. Andiamo che dici? Allora a sentire subito. Andiamo. Cuore e denari. Eh sì, ce le dobbiamo tenere ben strette queste monetine, o se abbiamo così anche la intenzione di investirle un po', dobbiamo farlo bene, conoscere le dinamiche dei mercati finanziari sui quali vogliamo puntare. Ecco perché noi stiamo andando avanti con il nostro percorso di investire informati. Come ogni giovedì c'è con noi un esperto di andamento e di scenari finanziari. Oggi tocca Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, ma sapete che cosa vi dico? Iniziate anche a mettere mano alla cornetta, perché vi faccio subito il nostro domandone. Visto che poi dobbiamo raccontarvi la favola di Natale, anzi dobbiamo scriverla insieme, anticipiamo un po' la chiusura di Investire Informati. Allora, prima vi dicevo che lo yuan, la moneta cinese, è stata inserita nei giorni scorsi dal Fondo Monetario Internazionale nel cosiddetto basket, nel paniere di riserve valutarie. Quali sono le principali valute internazionali che compongono questo paniere? Facilissimo, sono le più importanti, 800240024. Vi regaliamo anche il libro del dottor Speciani, visto che lo chiedete tanto. Nicoletta, lo regaliamo? Ma... o regaliamo un libro di risparmio? No, e basta. Ma con piacere. Ottimo. A richiesta, noi siamo pronte. Siamo pronte. Lorenzo Alfieri, oggi è la giornata della Banca Centrale Europea. C'è grande attesa intorno a questo appuntamento. Le nuove munizioni che Draghi oggi mette in campo spingeranno ancora. Anzi, guardi, il termine munizione me lo autoabolisco subito. Ma insomma, i nuovi strumenti che oggi Mario Draghi mette in campo, quali saranno secondo lei e spingeranno ancora più in basso i tassi di mercato? Poi rifacciamo un punto anche sull'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, in particolar modo, che davvero più in giù di così non so quanto ancora possano scivolare. Alfieri. Ma sicuramente è prevedibile un ulteriore intervento. Le due aree su cui si potrebbe intervenire è un'ulteriore espansione degli acquisti mensili da parte della Banca Centrale, e dall'altra parte ridurre ancora di più il deposito, il rendimento già negativo, quindi il costo dei depositi presso la BCE. Questo per quale motivo? Per spingere ancor più le banche a non depositare la propria liquidità sulla BCE, presso la Banca Centrale Europea, e ovviamente convogliare questa liquidità verso altri impieghi, tipicamente aziende, imprenditori, famiglie o altri utilizzi di questo genere, proprio per stimolare la crescita. Quindi diciamo che i dati da Eurolandia, come viene definita, sono sicuramente migliorati rispetto agli anni precedenti, ma comunque siamo ancora lontani da una sana crescita robusta. Ad esempio per gli Stati Uniti è superiore al 2%, quindi noi sappiamo che l'Europa purtroppo è ben lontana da quel target. Tra l'altro in Europa rimangono molto forti le pressioni deflazionistiche, cioè l'inflazione rimane schiacciata verso il basso, e questo è un ulteriore elemento di preoccupazione che potrebbe portare Draghi ad occuparsi ulteriormente di politica monetaria con le manovre che ho detto all'inizio. Mm-hmm. Allora, intanto 800240024, il numero verde a vostra disposizione per rispondere al domandone, ma anche per sentire la domanda di Ennio da Roma, che salutiamo. Ennio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, un caro saluto alla signora Nicoletta, alla signora Debora e al vostro esperto. Ma che gentile. Un grande ringraziamento per questa, diciamo, notizie che date, e quindi queste ottimo, informazioni. Grazie, ci dica di che cosa ha bisogno. Allora, io nel mese di agosto, dopo la burrasca che c'è stata, avevo dei titoli di Stato e ho preferito realizzare. Mm-hmm. E quindi poi rifare il portafoglio con delle obbligazioni anche a livello, diciamo, di Australia. Sì. E Australia e anche società tipo Fiat e Generali. Quindi anche obbligazioni societarie. Sempre obbligazioni. Sì. Ecco. Volevo sapere di questa BEI, diciamo, australiana. A che cosa posso andare incontro? Allora Ennio, tanto non avendo sotto gli occhi esattamente un prospetto con le caratteristiche del suo investimento, facciamo un pochino di fatica. Vediamo un po' di analizzare per quello che possiamo questo suo portafoglio esclusivamente obbligazionario, almeno questo è quello che ci ha raccontato Ennio. Titoli di Stato fuori, forse in quel momento ha fatto anche bene, visto come stanno andando adesso, insomma non rendono quasi più nulla, ma ha puntato molto intanto sul cosiddetto corporate, sulle obbligazioni societarie. Dottor Alfieri, peraltro anche quello è un investimento coraggioso, si può dire, non proprio esattamente paragonabile al titolo di Stato che investi in un'obbligazione societaria. Sì, in questo esempio possiamo cogliere due aspetti molto interessanti. Innanzitutto si è passato da un investimento in titoli governativi, quindi per così dire molto sicuri, ad investimenti corporate, quindi andare ad investire su aziende. Già questo primo passaggio presuppone ovviamente il fatto di conoscere l'azienda, sapere, avere informazioni sull'andamento dell'azienda, perché comunque il corso del titolo risente anche dell'andamento dell'azienda sottostante, e questo già è un primo passaggio. Il secondo passaggio ancora più importante è che l'investitore ci ha comunicato il fatto di essere andato ad investire in Australia, quindi presumo in dollari australiani, e quindi aver abbandonato l'euro. Ecco, mi permetto solo di dire, questi passaggi secondo me devono essere valutati attentamente, perché la rischiosità complessiva del portafoglio cambia notevolmente quando si passa da titoli governativi, esatto, a titoli corporate e a valuta estera. Ha fatto e in questo momento mi sento di dire che, visto la volatilità dei mercati, visto che i prezzi dei titoli obbligazionari sono molto cari e i rendimenti ovviamente sono molto bassi, e la volatilità anche delle valute, scusate il gioco di parole, in questo momento mi affiderei sempre a consultare, prima di fare questo tipo di investimenti, un esperto, un professionista, o eventualmente scegliere dei fondi, perché in questo modo la scelta del titolo sottostante viene fatto generalmente da un gestore, da un professionista che valuta continuativamente la qualità delle aziende e le valute eventualmente su cui si investe. Tra l'altro, l'ascoltatore, mi colpiva anche il fatto che è voluto uscire dal titolo di Stato, è andato su un portafoglio più aggressivo, si è assunto un po' più di rischio, non andando sulle azioni, ma comunque rimanendo sull'obbligazionario, ma piuttosto spinto. Che tipo di scelta è, a suo avviso? Devo dire, obiettivamente, questa è la scelta che molti investitori italiani stanno facendo in questo momento, perché si trovano schiacciati ormai da molto tempo con degli investimenti in titoli di Stato che non rendono più nulla, e quindi sono costretti a guardare altrove. È un passaggio epocale, viene definito, finché ovviamente i rendimenti di titoli di Stato rimarranno quelli che sono, e si presume che rimarranno quelli che sono per un po' di tempo. Io consiglio in questo momento di stare molto attenti a fare scelte indipendenti, autonome, il cosiddetto fai da sé. Bisogna andare presso eventualmente i propri referenti, consulenti di riferimento, perché il cambiamento è importante, e bisogna valutare attentamente i rischi che ogni investitore può sopportare. Lasciare il titolo di Stato, che veniva sempre considerato un investimento sicuro, un porto sicuro, per porti sconosciuti, in questo momento è più che mai rischioso. Senta un po', questi porti che erano sicuri ma che adesso stanno un pochino, tra virgolette, tradendo le aspettative del risparmiatore italiano, ma quanto potrà continuare ancora questa tendenza di veder scivolare i rendimenti dei titoli di Stato italiani sempre più verso il basso? Il BTP a 5 anni settimana scorsa ha toccato il suo nuovo minimo storico, lo 0,37%, il BTP decennale all'1,36, il BOT a 6 mesi è negativo per lo 0,11%. E a quanto pare l'idea è che la tendenza sia ancora ulteriormente verso il basso. È chiaro che lo scenario per quanto riguarda l'Europa sull'obbligazionario non è molto favorevole. Non crediamo però che possa essere proseguire per molto tempo ovviamente questa fase di rendimenti così schiacciati verso il basso. Storicamente siamo ovviamente, come ha correttamente detto, già ai minimi storici mai visti, quindi noi pensiamo che ormai il pavimento sia stato quasi raggiunto. Proprio per questo motivo, come dicevo prima, i rischi di andare ad investire su titoli obbligazionari con i prezzi così alti può portare a, diciamo, facilmente, anche se l'inflazione sale di poco, a incorrere in perdite, infatti, in conto capitale molto consistenti. Il pavimento è già stato toccato. Mi è piaciuto che non abbia utilizzato il termine floor, che ogni tanto loro usano, invece adesso, come vedi, fanno anche questo sforzo. Va di molto linguaggio. Esatto. Allora, ci fermiamo, abbiamo il traffico adesso, poi le risposte al domandone. Avete risposto in tanti, bravissimi. Cuore e denari. Il domandone, questa è la sigla di Rischia Tutto. E allora, siamo partiti facendo un ragionamento molto ardito sul tema del mercato valutario. Vi abbiamo spiegato che nei giorni scorsi il Fondo Monetario Internazionale ha inserito nel suo basket di riserve valutarie, nel suo paniere, nel suo contenitore, nel suo cestino di riserve valutarie, una moneta nuova, noi, a parte questo, è lo yuan, la moneta cinese. Ma noi quello che vi abbiamo chiesto è quali sono le principali valute internazionali che compongono questo paniere. Se sentiamo se Vincenzo da Napoli ha la risposta corretta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Vincenzo, eccoci a lei. Vincenzo, facciamo il tifo per lei, almeno io sicuramente. Deborah deve fare... Ma devo dire solo le valute divise o anche sì, le certo. percentuali? No, no, no, no, adesso non perché siamo così Vincenzo cattive. Sarebbe anche pronto. Era pronto anche con quello? No. Me le ricordo approssimativamente. Non importa. Non me le ricordo quando ci sarà Luan. So solo che l'euro è l'euro è stato schiacciato lì, l'hanno messo in un angolo, l'hanno messo in un angolo, Vincenzo. Ci dica quali allora, sono le principali insieme al dollaro, sì? L'euro, la sterlina e lo yen, e poi ci sarà lo yuan. Grazie Vincenzo, insomma abbiamo bravo, abbiamo aperto la nostra biblioteca, la nostra libreria per lei, naturalmente le regaleremo qualcosa molto volentieri. Allora Lorenzo Alfieri, ritornando un po', ieri peraltro è stata una giornata KO per il petrolio, che è sceso per la prima volta ad agosto negli Stati Uniti sotto i $40 al barile. Questo per quale motivo? Perché anche in questo caso poi ci sono sempre queste relazioni che veramente a spiegarle facciamo sempre una gran fatica, perché è stato diffuso il Beige Book, il rapporto periodico della Banca Centrale Americana, dal quale si evince appunto che il 15 e il 16 dicembre la Federal Reserve invece i tassi li alza, e come, Alfieri? Che relazione stabiliamo tra Banca Centrale Americana e petrolio? Beh no, diciamo innanzitutto questa è una delle considerazioni che appunto vengono ormai date per scontate sul mercato internazionale, in quelli valutari, appunto il fatto che il dollaro dovrebbe... rialzando i tassi il dollaro potrebbe ulteriormente rafforzarsi, e generalmente c'è stata sempre una relazione opposta con a un rialzo del dollaro il petrolio, essendo espresso ovviamente generalmente negli interscambi commerciali in dollari, tende a scendere. Non ci dimentichiamo anche che però poi sono state diffuse delle statistiche in base al quale diciamo le giacenze di petrolio in questo momento in giro per il mondo sono ai massimi storici, quindi evidentemente c'è grande disponibilità di petrolio, e chiaramente che è un grande tema anche utilizzo, per questa un utilizzo ovviamente non adeguato, e poi si riunisce tra breve l'OPEC esattamente a Vienna, su cui ed si è un aspetta. Grande tema anche di tensione geopolitica, certo. Come sempre il petrolio, tra l'altro sempre parlando un po' di Wall Street, del mercato americano, lo Standard & Poor's, l'indice di riferimento più importante, è salito sopra i 2100 punti, e sarà un tema che monitoreremo per tutto l'anno prossimo, perché ci piace seguire la campagna elettorale per le presidenziali e l'andamento della borsa generalmente. Alfieri, non so se le faccio una domanda che la mette in difficoltà: il mercato americano fa più tifo per il Partito Democratico o per il Repubblicano? No, ma in questo caso i mercati finanziari tifano per se stessi. Ecco qua. Allora, cara la mia Nicoletta, sono sì le 11:51, per cui è tempo di salutare Lorenzo Alfieri, che ringraziamo. Non so se abbiamo ancora con lui un'altra puntata prima della fine di dicembre, così manteniamo un po' la suspense e poi controlliamo il nostro calendario. Grazie per essere stato con noi. Grazie. A presto. E auguri. E auguri. E noi ci mettiamo a scrivere, perché è arrivato il momento di ricordare ai nostri ascoltatori l'iniziativa di Cuore Denari. Stiamo scrivendo la favola dentro la favola, naturalmente lo facciamo con tutti voi, con Andrea Vitali, con Isoluto Umana. Mi piace, a proposito di scrittura, ho trovato questa frase di Taylor Caldwell che diceva: il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli, e quindi anche la favola, esatto, ci aiuta a sentirci in rete. Allora oggi abbiamo scelto il contributo di Rocco, scritto ieri, mentre sul podio sono salite anche Laura al secondo posto e Barbara al terzo, come vedrete anche sull'apposita pagina del nostro sito dove riproponiamo i tre contributi scelti. Adesso però non perdiamo altro tempo e sentiamo il nuovo contributo del nostro nostrissimo Andrea Vitali. Per due giorni interi la renna Rudolf riflette sulla situazione. Il babbo, beato lui, di certe cose non si intendeva. Stava troppo lontano dal mondo reale, non riceveva giornali e non aveva mai voluto dotarsi di televisione. Così come non aveva pensato alla possibilità di uno sciopero, di certo non aveva preso in considerazione che gli scioperi, proprio come cominciano, a un certo punto finiscono. Quando quello che aveva bloccato anche il postino Mercurio fosse terminato, cosa sarebbe successo? Era quello il pensiero che la renna Rudolf continuava a rigirarsi nella testa. Il babbo, non avendo fatto altro in quel tempo che starsene seduto ad aspettare il postino, era ingrassato a dismisura. Probabilmente lui non se n'era reso conto, ma la sua rossa giacca era tesa sull'addome e i bottoni sembravano proiettili sul punto di partire per destinazione sconosciuta. Insomma, rifletteva ruminando la renna capo, bisognava dirgli che, ecco, coi dovuti modi, senza offendere, ma era necessario fargli presente una cosa della massima importanza. La neve fiocca, l'oro. La stiamo quasi imparando, ma adesso voi andate sulla pagina dedicata all'iniziativa e scrivete, concentratevi però sulle richieste di Andrea. Brava. Vitali. Allora, bisogna raccontare che cosa bisogna far presente al nostro Babbo Natale. La figura della renna capo mi ha fatto morire, molto divertente, molto carina, sempre con questa delicatezza Andrea si muove anche su questi argomenti, come sempre gli è congeniale fare, insomma. Allora, noi stiamo andando verso la chiusura di Cuore e Denari anche oggi, ma naturalmente puntuale, sì, domani è venerdì, non è che faccio come al solito che saluto rimando al lunedì le persone. Abbiamo terminato, grazie a tutti, oggi ce la facciamo anche fare, ringraziamenti a Carmelo Lauricella, Laura Vanossi e Marco Lombardo. Fantastico, allora noi possiamo andare, dai, a domani. A domani.